L'insegnamento del Regno dei Cieli. Parte 1, file audio 9, capitolo Le cinque fasi del Liberatore. Il paragrafo 10. Brit Hadasha, il nuovo patto nello spirituale, nello spirito. Yeshua parlava ai suoi studenti in ebreo e aramaico. Vedere le lettere ebree e connetterti con esse ti illuminerà. Durante la lezione ci sarà tempo e luogo per approfondire le leggi del Regno dei Cieli e come raggiungerlo. Questo è il nostro obiettivo: gradualmente divenire vivi, creare un posto dentro noi stessi secondo le leggi del Regno dei Cieli qui sulla terra. Con questo arriverà la redenzione. Tutte le leggi date nella Torah sono sacre, ma il modo in cui i rabbini le hanno interpretate per renderle comprensibile per la gente comune non è la via che porta alla vera redenzione. Io non lo renderò più facile per te. E neppure Yeshua lo fece. Yeshua discese a noi per innalzarci e non per degradare la santità come qualcosa di terreno, vale a dire come desiderio di ricevere per se stessi. Un essere umano deve arrivare alla propria redenzione, al suo adempimento più alto. Questo è il desiderio del Creatore, ma non nel modo in cui è stato fatto fino ad ora. In linea di massima, un essere umano è soddisfatto di ciò che è. Innanzitutto devi capire quale sia il vero significato delle parole Vecchio Testamento e Nuovo Testamento. La parola testamento non è ebrea. In ebreo Brit si traduce come patto. Il Vecchio Testamento è un patto antico. In ebraico, Brit Basar Kodesh, il patto della carne santa, o patto della carne. Per favore, concentrati, perché questo è uno dei principi che devi conoscere. E non capirai cosa sia la redenzione. È uno dei principi che devi conoscere, o non capirai cosa sia la redenzione. Questo è un segreto molto profondo, così profondo da capire, ma d'altro canto anche semplice. Il creatore, o Hashem, aveva fatto un patto con il popolo ebreo. Il patto della carne. Il patto con il patriarca Abraham Brit Milah, o circoncisione, è vedere Hashem tramite la carne. Senza patto della carne non v'era alleanza con il Creatore. In ebreo carne si traduce basar, che in realtà è Yesod. Questo è uno dei motivi per cui la Torah dà così tanta importanza alla carne, tra virgolette. Come forse già sai, la pulizia delle mani. Pulizia delle mani, della carne e altre cose materiali hanno un ruolo importante nella legge ebrea. È un'allegoria che si riferisce al patto futuro che Hashem voleva stringere nella seconda fase della rivelazione della sua creazione. Nell'ultimo libro della Torah, Mosè lo dice: dopo di me verrà un altro grande profeta, e voi dovrete ascoltarlo. Ma loro non lo fecero. Non volero ascoltare. Invece restarono nel patto della carne. Tu devi sentire questo 1000 volte prima che ti possa penetrare, e forse capirai quello che sto dicendo. Non riuscii a dormire per migliaia di notti. Non c'era via d'uscita per me. Il primo fu il patto della carne che il Creatore strinse con il popolo ebreo. E Mosè disse che ci sarebbe stato un altro profeta, vale a dire un'altra manifestazione dopo di lui, è che lui dovrà essere ascoltato. Poi venne Yeshua. E quale fu il patto che lui portò con sé? Il Brit Hadashah, il patto dello Spirito. Fai attenzione a quello che ti sto per dire. Il vecchio patto fu quello della carne, e il nuovo è quello dello spirito. Ma cos'è il corpo, la carne? Non importa più con l'arrivo della seconda fase. Questo era il messaggio che Yeshua aveva per noi. Il patto dello Spirito è arrivato. Il patto dello Spirito, cosa rimane nell'importanza della carne? Naturalmente devo fare attenzione e mantenere il mio corpo puro, ma c'è di più. Ognuno di noi deve penetrare la carne con lo Spirito Santo. Solo questo può portarci alla redenzione. Il patto della carne non era sufficiente. È solo la prima fase e questo primo patto con l'Hashem non era abbastanza. Naturalmente il popolo ebreo doveva accettarlo e questo era rivoluzionario. Perché chi al mondo conosceva Dio? Il mondo era pieno di pagani e atei. Gli ebrei furono i primi ad accettare il Creatore nella carne. E naturalmente questo fu un grande atto. E per questo ricevettero la misericordia dell'Alto. Ma non fu sufficiente. La seconda fase del patto dello spirito era ed è ancora necessaria. Questa volta venne per il mondo intero, prima per gli ebrei, ma poi anche per gli altri. Ma cosa disse il popolo ebreo? Noi abbiamo la legge di Mosè. Ma Mosè aveva indicato che Yeshua sarebbe venuto. Ma loro non potevano accettarlo. Che cosa è santo per il popolo ebreo? Che cosa vedono come Dio? La luce. Loro vedono il Creatore come qualcuno che non ha corpo e non ha nulla a che fare con il materiale. Il Creatore per loro è luce pura, non vestita in chilim. Questo è quello che vedono. Noi siamo carne, è Lui, è luce. Per il popolo ebreo il Creatore è qualcuno che li aiuta. Si prende cura di loro, ma loro lo vedono dal punto di vista noi, il popolo ebreo. Noi, non io. Perché la maggior parte di loro ha paura a dire: il Creatore ha una relazione personale con me. Perché hanno paura? La ragione è che vedono il Creatore come qualcosa di non materiale. Per loro è l'alta luce e loro sono di carne. Si sentono opposti alla luce. Ma non è questa la prima fase dell'esperienza del divino. O in altre parole, loro guardano nel cielo e vedono uccelli volare, ma non possono toccarli. Essere un ebreo ha tutto a che fare con la luce e questo è meraviglioso. Solo la luce è sorgente di vita. E loro continuano a pensare: chi sono io? Sono così piccolo e la luce così alta, troppo alta per me. Cosa può fare la luce per me? Sono così piccolo, come posso connettermi con lui? Questo è possibile solo tramite la Torah. Ma loro stanno ancora imparando come seguire i mitzvot in maniera infantile. vale a dire secondo il patto della carne, e questo è, non è abbastanza. In tutto sono necessarie due fasi. La prima è la preparazione. Perché abbiamo bisogno di due fasi? Ci sono due posti nel Parzuf, nel Kli. Vi è il posto di Achor, la parte posteriore, e il Panim, la parte anteriore. La prima fase è Achor, la parte posteriore, cioè l'oscurità. Vi è altro modo di distinguere la luce se non attraverso uno sfondo scuro? Non vi è altro modo di vedere la luce che nei Kilim. Cosa sono i Kilim? Sono una forma di oscurità della luce. In tutto abbiamo bisogno di opposti. Dall'oscurità possiamo vedere la luce. Non vi è altro modo. Questo è giudaismo. Che cosa è il cristianesimo? Fai attenzione a quello che sto per dire. Nessuno ti può dare questa risposta. Naturalmente hanno intuiti, sublimi, ma vengono dalla loro religione. Non possono uscire da essa, perciò non riescono a vedere da un punto di vista neutrale. Che cosa è il cristianesimo? È come il giudaismo, ma con l'aggiunta della credenza, dell'inclusione della luce, dell'inclusione del creatore nel Kliketer. Per loro questo è Dio e lo chiamano figlio di Dio e hanno ragione. E questo grazie al giudaismo. Gli ebrei avevano fatto la preparazione, il patto della carne, e come risultato il secondo patto poté venire. Questo è il patto dello spirito, il patto di Yeshua. Allora, nel cristianesimo entrambi esistono. La sorgente è il patto della carne proveniente dagli ebrei. E il secondo patto venne pure dagli ebrei, il patto dello spirito. Da questo secondo patto loro presero qualcosa. Ma solo qualcosa è, non fu e non è abbastanza. Per esempio, non presero le leggi della Torah. Allora, qual è la sorgente della loro religione? In cosa credono? Gli ebrei credono nell'alta luce senza Kilim, mentre i cristiani credono che la luce sia inclusa nel Padre, in corpo, il corpo del profeta, che per loro è come Dio. Questa è l'inclusione in Keter, dove non c'è Aviut. Ed è come Dio. Per loro Yeshua è come il figlio della luce, loro hanno il Kli Keter e lo Spirito Santo. Loro hanno il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Cosa significa? Da dove proviene? Loro non lo comprendono. Nella quarta parte di Tess abbiamo imparato della seconda distribuzione che in Keter lascia due Reshimot, tracce, vale a dire maschio e femmina. Dopo l'uscita della luce della prima distribuzione, il maschio è lasciato dietro. Ma sai che quando la luce lascia non scompare mai completamente. Quello che resta è qualcosa che si può paragonare a una candela che brucia. È Reshimot, una traccia di luce. Vi erano lì due Reshimot. Uno è il Cli stesso, Yeshua, il figlio. Il padre è la luce Chochmah che entrò nel Parzuf di Ab, il secondo Parzuf. La luce Chochmah è inclusa nel Cli Keter. E lo spirito è il Rishimot maschio, Rishimot maschio, che venne lasciato nel parzuf del mondo di Azilut. Come è fatto il mondo di Azilut? Quali sono le due componenti? Ci sono due parametri in ogni oggetto spirituale. Uno è Hitlapshut, un rishimo che punta al tipo di luce che vi era prima, poiché vi è prima e dopo. In ogni cosa vi è causa e effetto. Possiamo misurare un oggetto spirituale tramite due cose, due parametri. La luce che vi era prima e la traccia che è rimasta. È la viyut, che è lo spessore del desiderio, con il massach dentro l'oggetto spirituale. Ricorda che i rishimot della luce sono sempre di un livello superiore dei rishimot del aviyut. Quali sono i due soggetti usati nella costruzione del mondo azilut? La prima fase è la fase zero. La prima fase è Hitlapshut. Che luce vi era lì? Quali erano i reshimot di Hitlapshut? Ruach. L'intero mondo azzeluto è costruito con i reshimot della luce Ruach. Questa è la prima fase. E la viud della fase zero è Nefesh. La femmina, Nefesh, è fase zero. E il maschio, Ruach, è la fase uno. La forza in Keter con la viud zero è il Kli Yeshua. Osserviamo nuovamente l'immagine dei cristiani, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Kli Keter è Nefesh ed è Yeshua il Figlio. La luce che è inclusa nel Kli Keter è il Padre. È il Reshimo della luce Ruach E lo Spirito Santo è in ebreo Ruach HaKodesh. Quando impari Kabbalah arrivi alla comprensione di ogni religione, scienza e qualunque altra cosa qui sulla terra. Dall'interno riceverai la sensazione che quello che tu vedi, provi, sperimenti, è l'insegnamento santo. Questo non accade nelle religioni perché essa è parziale, è mescolata con il materiale. Quando vai più in profondità nella Kabbalah, vedrai, e a volte potrai misurare e metterlo nell'albero della vita. Perché? Kabbalah è la base di tutta la conoscenza possibile. Domanda di uno studente: perché ci fu una tale divisione? Questa è una buona domanda. Prima di tutto, non sto parlando di religioni. Non ho alcun interesse, ma ne ho bisogno per avvicinarmi al divino. Perché? Prima gli ebrei erano contro il cristianesimo. In realtà, loro sono molto vicini. Ma allora perché ebrei e cristiani si separarono? Gli ebrei credono in un Dio, un Dio che non è materializzato, o in altre parole, incluso. Nessuna persona sa dove lui sia, dove sia il suo luogo, perché guardano al di fuori di se stessi. Non possono sperimentare il creatore in modo fisico, solo tramite immagini. Questa è l'esperienza della sola religione. Non vi è un solo ebreo che può dirti di avere una relazione personale con Dio. E ha ragione. Il popolo ebreo non accetta il cricketer. Ma se lo facessero, questo è un tema molto profondo. Ma farò del mio meglio per spiegartelo in modo semplice. L'ebreo non accetta il cricketer, né a livello personale né nella creazione. Perché? Non possono accettare l'inclusione del creatore, del padre nel kilim della creazione. Per loro il creatore è fuori. Osserva per esempio i 13 postulati del credo di Maimon. Postulati del credo di Maimon. Il creatore non si connette con nessuno. Per loro è impossibile che il creatore possa connettersi con qualcuno o qualcosa. Loro vedevano il creatore come sorgente di vita, ma supponendo che ci fosse un collegamento con qualcosa di limitato, lui non sarebbe perfetto. Perciò non possono accettare l'inclusione della luce in un cli nel cliketer. Sappi che il creatore è sempre e solo incluso nel clicketer. Il creatore è in ogni clicketer. Il prossimo passo è per l'essere umano. Lui deve attirare lo splendore del creatore nei kilim inferiori tramite Dat e ulteriormente più in basso. All'interno dei quattro kilim più bassi della creazione non c'è luce. Questo è quello che chiamo la scatola nera. Questa è Havaya dei Kilim. È senza luce e c'è la creazione. Ma in Keter è sempre inclusa la luce. Gli ebrei non accettano il Kliketer perché credono che il creatore non sia connesso con la creazione. Questo è uno dei 13 principi del loro credo. Fu necessario per disassociarsi da tutto il materiale. Nella loro percezione, il creatore non può connettere se stesso con la creazione. Per loro il creatore e l'essere umano sono separati, per cui non possono accettare il clicketer. Ma se non si accetta il clicketer, come si può ricevere la luce? Hanno solo la viut, ma manca loro l'accettazione di Keter, ed entro Keter vi è il creatore. Cosa accettano? La scatola nera. Ha quattro fasi, le quattro fasi. Avaya della creazione. Esiste la possibilità di connettere la scatola nera, vale a dire l'essere umano senza Keter, con la luce. La creazione, le quattro fasi, è il desiderio di ricevere per se stessi, vale a dire la negazione del dare e la luce è dare. È possibile connettere giorno e notte, luce e oscurità, visto che sono così opposti. È impossibile per loro fare la connessione tra luce, chi dà, e l'essere umano, chi riceve, perché non vi è clicketer. Capisci? Per questo gli ebrei dall'interno sono contro i cristiani. Nel cristianesimo vi è il credo della materializzazione di Dio nell'essere umano, e questo è spregevole per l'ebreo. Capisci? Questo è il motivo per cui gli ebrei dall'interno sono contro il cristianesimo. Poiché i cristiani credono nella materializzazione di Dio nell'essere umano e questo è spregevole per gli ebrei. La loro argomentazione è: come può qualcosa infinito essere incluso in qualcosa così minuscolo come l'essere umano? Per l'intelletto è difficile da capire. È possibile per un ebreo diventare cristiano? Loro ci provarono all'inizio, ma solo per ricevere standard più alti o per praticare certe professioni, eccetera. Ma pensi che veramente un ebreo all'interno possa diventare cristiano? Non credo proprio. Ho cercato in molti libri della Cabala segreta, ma non ho trovato una parola su questo tema. Per migliaia di anni il credo di un ebreo è talmente programmato che lui crede solo nella luce pura e non nell'inclusione della luce in un cli. È possibile per lui credere che Dio sia incluso in un cli? Non vi è ragione alcuna per lui. Per questo sono dall'interno contro il cristianesimo. Ma prima venne il giudaismo. Solo più tardi il cristianesimo. La base del cristianesimo è il messaggio di Yeshua, Brit Hadashah, il patto dello Spirito. Non pensare che Yeshua venne per i cristiani, nella prima istanza. Lui venne per ebrei oltre per tutto il genere umano. Il suo messaggio è il nuovo patto, cioè il patto in spirito e non carne. Naturalmente la nazione ebrea è molto antica, nel senso di sangue e spirito, ma le nazioni più nuove e giovani, per esempio i cristiani, o chi era pagano e si convertì in cristiano, sono nuove e più giovani dei ebrei. Vedilo in questo modo. Dall'inizio ci fu il giudaismo ed ancora qui. Il secondo patto fu quello dello spirito e la nuova nazione lo prese come sua religione. Non solo questo, fu dato loro l'ingresso alla redenzione, ma solo l'ingresso. Possono vedere la redenzione dai cancelli esterni, possono vedere la redenzione dai cancelli esterni del Regno dei Cieli, perché loro ricevono solamente lo splendore dei Kli Keter, ma non possono ascendere da se stessi al Kli Keter. Possono solo ricevere del Kli Keter da lontano. Inoltre, non possono attirare la luce verso i Kelim inferiori. Il popolo ebreo ha più profondità perché Mosè li portò al Clidat. Shimon Bar Yochai li portò ancora più in basso al Clitifer. E Yitzhak Luria li portò a Yesod. Il popolo ebreo ancora non accetta ciò che è sotto il Clidat. E questo è il problema. Perciò loro restano attaccati al Clidad e ancora provano a capire il divino con la loro testa. Finché non accettano gli altri, si preoccuperanno di capire con la loro testa, solo con la loro testa. Il popolo ebreo usa solo la testa per il divino, mentre il desiderio del Creatore è che ogni essere umano viva con Dio dentro di sé, cioè sperimenti i suoi propri Kelim quando il Creatore può venire nei Kelim. Dentro il suo corpo la persona può sperimentare Dio. Questo è quello che chiamiamo vita. E non il ragionamento intellettuale con la testa. Sento il popolo ebreo e i loro rabbini parlare. Ma quello che dicono è puerile, è spiritualmente immaturo. Hanno il loro intelletto, ma si rifiutano di andare oltre. Lasciami citare Yeshua che disse che la loro testa è talmente grande che non può passare nella cruna di un ago per entrare nel divino, nel regno dei cieli. A causa di questo, essi rifiutano la redenzione. Dall'alto non hanno redenzione. Le loro radici sono andate. Perché loro ricevono solamente lo splendore di Clidad, perché stanno lavorando ancora solo con la testa e le labbra. Cioè, non viene dal cuore. A loro manca la forza di volontà, perché questa deve venire dal loro credo. E questo deriva dall'accettare il cliccheter, che è l'anello mancante. Keter non è lì solo perché non vogliono venire a Keter. Dall'inizio ebbero ingresso libero al cliccheter, ma a causa del fatto che lo hanno ignorato, hanno perso ogni contatto con Keter e senza Keter non si sperimenta la luce. Non vi è alcun ebreo che possa sperimentare il Creatore. Naturalmente sanno del Creatore, ma solo con la loro testa. Ma tra il sapere e il provare vi è una differenza come tra il giorno e la notte. I cristiani comprendono Keter, il patto dello spirito, ma non riescono ad andare oltre. Non riescono a portarlo più giù, perciò pensano che la redenzione arriverà nell'aldilà. Questo è dovuto allo splendore di Keter della luce circostante, che dà loro la sensazione che sia fuori, che venga da un mondo futuro invece che da questo mondo. Ma deve accadere qui sulla terra. Ora puoi capire perché è necessario imparare sia il Vecchio Testamento, sia il Nuovo Testamento. È necessario studiare entrambi perché appartengono all'unico insegnamento della redenzione. Chiaro? La Torah, lo Zohar, Etzchaim e dopo, con l'aiuto di Dio, quando siamo pronti, Shlovei HaSulam, poi possiamo iniziare con il Brit Hadashah, il Nuovo Testamento in ebreo. Allora possiamo connettere tutto. E questo sarà l'insegnamento del regno dei cieli. La Torah è più profonda nei Kilim. Abbiamo bisogno dello Zohar per spiegare la Torah. ed Yetzhayim delle Ari per spiegare tutte le altre parti tramite i Sferot. Quando una persona impara il Nuovo Testamento, cosa riceve? Riceve solo da un Kli, cioè Keter. Fai attenzione perché questo è molto importante. C'è solo la luce, Def, Nefesh, quando si studia solo l'insegnamento del Regno dei Cieli, senza le altre tre parti dell'insegnamento della redenzione. Un cristiano e ogni persona che appartiene alla religione cristiana ricevono solo la luce, Nefesh, del Kli, Keter. Quando studi la Torah e la connetti con lo studio del Regno dei Cieli, ricevi anche la luce Ruach. Ruach significa lo Spirito Santo e in ebreo Ruach HaKodesh. Allora riceverai lo Spirito Santo. Quando qualcuno studia l'insegnamento del Regno dei Cieli e la Torah, il Kli Keter entra nella luce Ruach. Stiamo imparando lo Zohar e Ari, perciò possiamo ricevere Neshama e Chaya. Studieremo l'insegnamento del Regno dei Cieli in modo da attirare le luci da Nefesh fino a Chaya. Non solo in un Kli, ma fino a Yesod. Non solo in un Kli Keter, ma fino a Yesod. Da Yesod lasciamo ascendere la luce, Or Hozer, fino a Keter. Prenderemo quattro luci qui nell'insegnamento del Regno dei Cieli. Tutto è connesso. Quando impariamo il Regno dei Cieli, abbiamo bisogno degli elementi del Nuovo Testamento in lingua ebrea. Ma c'è una cosa che devi sapere. Liberati del Nuovo Testamento tradizionale e di Yeshua. Non dimenticarli, ma libera te stesso per iniziare fresco così da poter provarlo in modo nuovo. Perché io lo farò in un altro modo. Attrarrò la luce più profonda dall'insegnamento del Regno dei Cieli. Stabilirò la connessione tra tutte e quattro le parti dell'insegnamento della nostra Kabbalah lurianica. Naturalmente, tutto si trova nell'insegnamento del Regno dei Cieli. Ma solo in potenziale. Ma tu devi sapere che hanno bisogno di un dell'altro, di uno dell'altro. L'insegnamento del Regno dei Cieli non è abbastanza. Dobbiamo risvegliare gli altri chili. È il desiderio del Creatore che facciamo più che afferrare il cliccheter e cantare Alleluia. Lui vuole che noi sviluppiamo tutti i quattro Kelim dentro noi stessi. Questo è quello che Yeshua vuole pure. Lui non vuole restare fuori. Il desiderio di Yeshua è che noi veniamo a lui. Ma questo è possibile solo quando una persona può attrarre arrendersi al cliqueter nello stesso modo in cui fece Yeshua quando si sacrificò. Solo allora una persona può ricevere il suo cliqueter. Ricordi cosa disse Yeshua? Il mio corpo è il pane, è il mio sangue e vino. Che cosa significano queste parole? Il mio corpo significa chassadim. La luce del Padre che è dentro l'alto keter si manifesta in due tipi di luce, cioè chassadim e lo splendore di Chochmah. Quando Yeshua disse mangiate il mio pane, vuole dire prendete o mangiate il mio corpo, vuole dire prendete la mia chassadim. Quando disse bevete il mio sangue, vuole dire ricevete la mia Chochmah. Come posso ricevere Chochmah non solo tramite Keter, ma anche quando ritorno dal regno dei cieli a Yesod? Non vi è scomparsa in spiritualità. Nel momento in cui sei arrivato al tuo Kli Yesod, la luce Chochmah può entrare nel cliqueter. Quindi tu puoi prendere il sangue, o in altre parole, puoi prendere Yeshua dentro di te. Quello che faccio è spiegare le sacre scritture tramite la Kabbalah. Solo in questo modo puoi capire cosa è scritto nella Torah. Questo è l'unico modo di capire e provare quello che è scritto nell'insegnamento del Regno dei Cieli. Naturalmente ci sono molte spiegazioni bellissime, spiegazioni che possono far sentire una persona bene, sopraffatta, ma non la salveranno. Ho imparato cose meravigliose nella Torah e nel Talmud, ma non potei trovare la salvezza perché vi era connessione con Keter. Non vi era connessione con Keter. Senza Keter non significa nulla. Quando leggi Tess, osserva attentamente e vedrai che è tutto su Keter. Se leggi Tess, osserva come l'intera quinta parte superiore di ogni cinque fasi è solo su Keter. E questo puoi trovarlo in tutto. Ari non menzionò Yeshua. Lui parla solo di Keter. Senza Keter è impossibile capire perché in Keter è nascosto il Creatore. Non vi è altro ingresso nella luce, altra salvezza. Yeshua è l'alto Keter, il Keter coordinato. Pochi giorni fa vidi qualcosa in televisione. C'era una persona che aveva studiato teologia a Roma per molti anni e aveva scritto un libro su Agostino. La televisione italiana, ho guardato. Era molto onesto e disse che lui non aveva trovato il Creatore. Non solo lui, ma disse pure che neppure Agostino aveva trovato il Creatore. E come conseguenza neppure i padri della Chiesa. Dal suo punto di vista Agostino aveva dubbi. Questo è meraviglioso. E mi fa capire che i padri della Chiesa erano uomini onesti. Sapevano del Creatore, ma non potevano trovarlo. Che cosa significa? Solamente che non potevano portarlo all'interno dei loro kilim. Mentre ora viviamo in un tempo in cui questo ci è possibile. Noi possiamo portarlo al nostro Yesod. Senza una canonizzazione. È possibile anche per te ai giorni nostri. Devi solo proteggere il tuo Yesod. Ai quei tempi era impossibile. Loro potevano proteggere la loro testa e persino lo splendore della guardia poteva arrivare al cuore, ma non a Yesod. Questo è il motivo per cui la luce non andò così in profondità. E vi sono persone così oneste che ammettono che non conoscono il Creatore. La religione descrive solo il Creatore, cose buone sul Creatore, ma loro non lo conoscono a causa delle variazioni della luce. Prima devi ricevere da Keter, altrimenti come può la luce andare ai chilime inferiori? E loro furono onesti e dissero: no, non ho trovato il Creatore. Tutti i santi padri videro lo splendore della luce Nefesh e parlarono di questa luce e costruirono una grande teologia basandosi su questa luce. Loro potevano parlare del Creatore da tanti punti di vista, ma restava dalla prospettiva di Keter, perché era da lì che veniva la luce. Ma loro non avevano la possibilità di attrarre la luce in profondità. Naturalmente gli ebrei, e non ne faccio loro colpa, sono nel mezzo. È impossibile per loro spiegare la Torah in modo che aiuti i cristiani. E dico cristiani perché sono i fratelli spirituali più giovani degli ebrei. Il modo in cui gli ebrei trattano la Torah è tale che loro non attraggono sufficientemente il suo splendore per penetrare il resto delle nazioni del mondo. Dopotutto, la luce deve passare attraverso gli ebrei e iniziare a risplendere sul resto del mondo, inclusi i cristiani. Questo significa dopo scenderà anche nei kelim più profondi. Che cosa significa? Che la luce potrebbe entrare nei kelim inferiori, ma sfortunatamente gli ebrei non lo permettono. Per questo Agostino non poteva trovare il Creatore perché gli ebrei, anche al tempo di Agostino e dei padri della Chiesa, degli altri padri della Chiesa si occupavano della Torah in un modo che non aiutava né loro né altri, perché interpretavano la Torah secondo il patto della carne e si preoccupavano, per esempio, di come lavarsi le mani, fare bagni rituali, pulire le pentole. Questo aiuta. Rispetta le leggi divine. Ma il popolo ebreo non riusciva ad arrivare a Cheta, e quindi non vi era splendore né per loro né per gli altri. Capisci ora quando dico che gli ebrei sono un ostacolo per la luce, che loro non possono, non passano la luce. Questa è l'essenza per attirare il regno dei cieli alla Torah, agli ebrei. È così importante che loro accettino Yeshua, non diventando cristiani, ma solo accettando Yeshua perché è il loro Keter, il loro re più alto. È Keter per tutto il genere umano. Se solo i grandi leader ebrei rendessero questo concetto chiaro alla nazione ebrea, non diventando cristiani, ma solo accettando Yeshua, sarebbe devastante se un ebreo divenisse un cristiano. Per favore, leggi le mie parole attentamente. Ascolta le mie parole attentamente. Il popolo ebreo non può convertirsi al cristianesimo. Devono solo accettare Yeshua. Questo è sufficiente. Supponi che un ebreo si convertisse al cristianesimo. Vi sarebbe qualcuno che potrebbe ricevere l'alta luce e tramandarla? Sarebbe devastante. Il popolo ebreo deve restare al proprio posto e accettare Yeshua dal profondo del loro cuore. Questo ci darebbe un passaggio affidabile di due sfirot, Keter e Da'at. Il passo successivo sarebbe che gli ebrei accettino lo Zohar perché al momento dicono non possiamo imparare lo Zohar. È troppo elevato per noi. Lo Zohar è così divino che nessuno può raggiungerlo. E invero hanno ragione, perché prima deve esserci l'accettazione di Yeshua, il Kli Keter, e poi la Torah rivelerà i suoi segreti. Quindi la luce Ruach può risplendere attraverso la Torah. E i tuoi occhi si apriranno per lo Zohar. Chiaro? Ora puoi capire perché il popolo ebreo non capisce lo Zohar e Etzchaim di Adelari. Non possono e non potranno finché ignoreranno l'insegnamento di Yeshua, finché non accetteranno il Kli Keter. Per questo motivo il grande rabbino Yosef Karo, uno studente di Ari, nella sua generazione di Ari, dormiva durante le lezioni del maestro del Delari. Caro era un genio. Scrisse molte cose, per esempio il Shulchan Aruch, il codice delle leggi quotidiane degli ebrei. Molti ebrei studiano questo pezzo profondo molto accuratamente. Era un uomo saggio, conosceva tutto ed era una brava persona, ma non poteva capire Keter. Naturalmente sapeva che quello che il suo maestro gli insegnava era divino. Sapeva che Ari parlava rappresentando l'Hashem, ma per lui non poteva, per questo si addormentava. Andava alle lezioni, ma si addormentava durante le lezioni. Keter era troppo alto, troppo potente per lui. E possiamo vedere lo stesso con alcuni tra i migliori studenti di Yeshua. Ricordi il giorno che Yeshua li portò nel giardino di Getsemane? Che disse Yeshua? Restate svegli, state all'allerta. Vale a dire, restate con me e non cadete nel sonno spirituale. Ma loro non potevano. La carne, le quattro fasi inferiori non potevano trattare con Keter. Non abbiamo il proverbio la mente vuole, ma la carne è debole. Quella notte la forza di Yeshua era così potente che loro non poterono trattare con tutta quella tensione spirituale così incredibilmente alta. Tuttavia, forza di Din, di loro non poterono sperimentarla. Volevano esserne parte, ma non ci riuscirono. Yeshua scese al monte e pregò. E quando discese, li trovò addormentati. E vi è un'altra storia di Yeshua che salì su una montagna e lo videro in una veste bianca insieme con i profeti Eli e Mosè. Era oltraggioso. E che fosse vero o no, non poterono sopportarlo. Che disse Pietro? Costruisco tre tente per voi tre. Il livello delle forze di Keter era troppo alto per loro, per cui si addormentarono. Per questo hanno creato riti, per rendere lo spirituale più materiale. Ieri sera ho visto in televisione italiana un programma sul Vaticano. Ho visto molti dipinti, tutti con uomini nudi e solo alcuni, un paio con donne nude. Questo è quello che diceva il narratore. Le radici del cristianesimo si trovano nella religione ebrea, ma l'arte ebrea è la più povera a livello visivo. Era proibito fare ritratti di esseri umani. E disse inoltre: nel cristianesimo ci sono molte statue e questo rappresenta la ricchezza del creatore. Era il direttore del museo di Vaticano. Una statua, non importa se nuda o meno, può essere un pericolo a causa dell'idolatria. Per esempio, una persona ordinaria che si inginocchia in chiesa di fronte alla statua di Yeshua, ma a cui manca la forza dall'interno, non può provare la forza di Yeshua, la forza di redenzione. E Yeshua ci portò il patto dello spirito, non il patto della statua. Lo stesso lo vediamo nei templi di altre religioni. Naturalmente le statue possono essere belle e l'artigianato formidabile, ma non hanno nulla a che vedere con la spiritualità. Io non critico, ma ciò che fanno è connettere l'arte con la religione. L'arte in se stessa può essere formidabile. È anche una fonte di guadagno. Queste statue sono belle per l'artista e il pubblico, ma sono contro il messaggio di Yeshua, perché lui portò il patto dello spirito. In un certo senso puoi dire che un bravo artista porta il divino qui sulla terra. Un artista ha sempre un'altra idea di realtà e la dimostra nei suoi pezzi. Per esempio, un pittore è qualcuno che non vuole o non può vedere la realtà e invece crea un sistema della sua percezione tramite i colori, ma non la vera realtà. In un certo senso sviluppa il proprio modo di vedere, un disordine dovuto ai suoi desideri non corretti. E questo va bene perché pure questo viene dall'alto, che un artista voglia connettere la sua arte con la religione è bene, ma tieni a mente che sempre resta un pezzo di legno o di stoffa con della pittura sopra, fatto da qualcuno, e non vi è nulla di divino in esso. Naturalmente puoi ammirare le sue qualità artistiche, ma non altro perché sarebbe sbagliato. Per esempio, a me piacciono la musica classica e anche altra musica. E l'arte le possono apprezzare enormemente. E lo dico solo come avvertimento. Stai allerta. Resta sveglio così da non usare la tua immaginazione e perderti nel dramma, eccetera. Perché vi è un pericolo serio per il tuo interiore, l'idolatria. Che cosa accade dentro di te? Piazzi un oggetto tra te e e la redenzione. Tra te e Yeshua il Kli Keter. Piazzi qualcosa in mezzo e questo può avere come conseguenza il suicidio spirituale. Forse puoi spiegare con parole bellissime le meraviglie dell'arte vaticana, che è divina e che il museo è divino, che è tutto per la gloria di Dio. Questa non è una critica perché ai cristiani è permesso. Ma devi sapere che non era e non sarà mai l'intenzione di Yeshua, il quale portò il patto dello spirito e non della carne. Il libro dello Zohar è enorme e ha molti capitoli, ma solo in un posto. E anche lì devi leggerlo con molta attenzione. Puoi vedere qualcosa di Chochmat HaSichlut. L'insegnamento della sciocchezza. Fu il divino Rav Hamenon HaSabbah che insegnò a molti a 10 devoti cabalisti, autori dello Zohar, l'insegnamento della sciocchezza. La radice dell'anima di Rav Hamenon HaSabbah viene dai 7 sfirot inferiori di Keter di Atik del mondo Azilut. Egli fu il più grande di tutti i tempi. Lo Zohar ci dice che quando una persona raggiunge tutta la saggezza, allora è pronta per questo insegnamento segreto di Chochmat HaSichlut, l'insegnamento della sciocchezza. Rav Hamenon HaSabbah fu l'unico che poteva insegnarlo. Va molto oltre qualunque conoscenza possibile sulla spiritualità. Ma che cosa è questo insegnamento? È l'insegnamento di Lemala Meadat, che è l'insegnamento che insegna andare oltre la ragione. Perché si chiama insegnamento della sciocchezza? Naturalmente per chi vive qui in questo mondo materiale lo vedono come sciocchezza. Per loro la conoscenza porta più profitto e dà più divertimento. Ma l'insegnamento di come dare in verità, l'insegnamento del regno dei cieli, questo è l'insegnamento della sciocchezza. Perciò diventa uno sciocco per Yeshua, diventa uno sciocco per la tua redenzione.